buongiorno, bellissime luci di primavera per quanto riguarda la giornata odierna, 26 aprile, vigilia di weekend, in seguito alle luci più belle che abbiamo vissuto assieme a voi, con la liberazione il 25 aprile dal Pratello, la diretta di Radio Città Fujiko, insieme a William Piana, Alessandro Canella e Alfredo Pasquali, qua in diretta con me anche per il Jet Live. Noi il ponte non lo facciamo, noi vogliamo portare buona musica e sull'onda dell'entusiasmo di una festa meravigliosa che abbiamo vissuto assieme alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Fujiko e non solo, compagne e compagni che hanno portato sì una bellissima luce all'interno di noi e all'interno di una giornata che resterà sempre e comunque. Buongiorno Alfredo, ti è piaciuto l'incipit? Sì, veramente, è epico. Epico, da scolpire. No, ma veritiero. Perché è stata una giornata veramente bella, sì. Molto bella, anche il tempo ha resistito assieme a noi. E oggi quindi, il sole. E oggi abbiamo il sole, abbiamo tanta musica, è musica che comunque comprenderà ogni emozione e ogni sonorità, da Ferrara poi a Bologna, con un'anticipazione speciale dedicato ad Angelica. Angelica, queste musiche, festival di musica, come lo stesso direttore artistico lo definisce, da 34 anni propone in lungo e in largo tutte le emozioni note possibili, immaginabili, ma andiamo pianin pianino per quanto riguarda un weekend che inizia già da questa sera, anzi per meglio dire a Ferrara il 25 aprile l'hanno vissuto con un trio Goldsing, Bernstein e Stewart che abbiamo conosciuto in un last minute musicale in cui ho dato anticipazione a queste sonorità, per cui una settimana ricca di musica dalla città estense e dal Torrione fino ad arrivare a questa sera, venerdì 26 aprile alle 21.30 avremo un quartetto italiano, Lorenzo Simoni è il frontman al sax contralto, Guglielmo Santimone al pianoforte, aggiungiamo un Santimone alla famiglia dei Santimone già molto popolata e talentuosa, Giulio Sciannatico al contrabbasso e Simone Brilli alla batteria. Simoni è un saxofonista e compositore, si avvicina per la prima volta al contralto all'età di 11 anni, quindi è un fan prodige, si è diplomato in saxofono classico con il massimo dei voti, tanti premi che fin da piccolo ha voluto e ha praticato e ha studiato nelle realtà jazzistiche. Un musicista eclettico, un musicista che si mantiene nella ricerca e allo stesso modo con importante visione per la tradizione. Beh, ho contattato Lorenzo per dare anticipazione a questo concerto di questa sera alle ore 21.30 per aprire ufficialmente l'ultimo weekend di programmazione per il mese d'aprile al Torrione. Sentiamo appunto i contenuti per quanto riguarda le sonorità del quartetto protagonista per questa sera. Iniziamo questa nostra conversazione allora per il concerto di venerdì 26 aprile insieme a Lorenzo Simoni che sarà in quartetto e ne parleremo con Lorenzo stesso per anticipare l'appuntamento al Jazz Club di Ferrara. Intanto buongiorno Lorenzo e benvenuto. Ciao, buongiorno, grazie mille. Cosa ascolteremo per la serata che apre il weekend a Ferrara? Suonerò insieme al mio quartetto e suoneremo tutte le composizioni originali da me scritte che rappresentano un po' l'insieme di nostre caratteristiche, tutti i nostri stili musicali. Questo è l'idea, il progetto che stiamo portando in giro da un po' di tempo. Con Guglielmo Santimone al pianoforte, Giulio Sciannatico al contrabbasso, Simone Brilli alla batteria. Ecco, è un interplay legato a un jazz, è sempre difficile poi approfondire in questo modo, però con che modalità? La cosa secondo me peculiare di questa formazione in particolare è che abbiamo tutte delle estrazioni culturali, diciamo, e di generi con comune denominatore la nostra grande passione per il jazz, soprattutto quello di tradizione afroamericana, diciamo, e anche della tradizione dello swing. Quindi questi elementi vanno poi a combinarsi con le caratteristiche, diciamo, singolari di ciascuno per poi auspicabilmente creare qualcosa di interessante e di creativo. Quindi sicuramente se dovessi etichettare, dare una descrizione specifica al repertorio, è sicuramente di stampo moderno, ma almeno personalmente cerco di mantenere sempre un legame con la tradizione, perché è quella alla quale siamo tutti nati. Certo, e aggiungo, avete programmi anche di pubblicazione di lavori come dischi, ad esempio? momento dare la priorità a suonare il più possibile, quindi non abbiamo ancora una registrazione e quindi, ripeto, al momento stiamo suonando in tutta Italia e sto organizzando anche un po' di impegni in Europa e la priorità è proprio questo, è vedere un po' qual è l'effetto di suonare per tanto tempo insieme in contesti live e non live e vedere come si evolve il gruppo, come si evolve il suono del gruppo, come si evolvono gli individui singolarmente e in relazione tra di loro. Certo, un po' un laboratorio itinerante prima di sviluppare poi una pubblicazione che vi auguro ovviamente. L'appuntamento è a Ferrara, al Torrione, il Jazz Club Estense per venerdì 26 aprile, Lorenzo Simoni Quartet. Io ti ringrazio tantissimo per questa conversazione, ti auguro una buona giornata e ci vediamo a Ferrara. Grazie. Grazie mille, anche a voi, a presto. giovane età di tutta la formazione, un'espressione artistica matura, certo sono arrivati anche i premi e riconoscimenti dalla critica per un modern mainstream jazz che allo stesso modo ha una sua originalità. Da queste note, Alfredo, penso che sia condivisibile questa mia recensione. Sì, ricordo un po' quell'area del vecchio Dave Liebman. Ah, sì. Diversi. Beh, è un bel complimento. No, certo che sì. Quartetto è classico, contralto, pianoforte, contrabbasso e batteria. Per questa sera alle 21:30 il quartetto di Lorenzo Simoni. Temi leggibili e allo stesso tempo raffinati. Una ripresa del tema alle 11:42 minuti dopo la presentazione per la serata odierna. Ci spostiamo invece al sabato 27 aprile alle 21:30. Suoni dal mondo, Alfredo, in questo caso. Sì, perché abbiamo questo duo, Gretchen Parlato con Lionel Lueke, cioè lei è la voce, Lueke è la chitarra. Lei è una decana perché nasce nel 76, quindi non è che sia vecchia, però insomma ha vissuto momenti importanti, suonando con Wayne Shorter, Bianco, Kenny Barron, poi Marcus Miller e Terence Blanchard. Terence Blanchard, che noi conosciamo anche per il clone sonore di Spike Lee, tra le altre cose, è anche il tredunion che lo unisce a Lueke. E questo duo, tra Lueke, chitarrista, e la parlato voce, ha vinto anche dei Grammy Award come miglior disco dell'anno, questo quindi ne è ancora da poco. Lueke, peraltro, è un chitarrista molto personale, che ha esperienza anche lui con musicisti del calibro con Wayne Shorter, sopracitato, Charlie Haden, o ancora vedo tra gli altri Brian Blade, Patti Tucci, per dire Hargrove, Santana, anche sul versante. Quindi è un personaggio molto eclettico, e in questo duo appunto viene fuori la miscela musicale che ascolteremo sabato. Certo, e che ha delle note che vanno a riprendere non solo un'estensione territoriale che già di per sé è eterogenea, anche un che di microsensazione molto sensuale, molto sentimentale e delicato, ecco, dal brano anche che vi ho selezionato, oltre che, come ho già detto, un'unicità nella proposta. Il brano è Lean In, la formazione in duo. In questo caso vi è anche il featuring di Mark Giuliana, ma i protagonisti al torrione saranno Gretchen Parlato e Lionel Lueke. Ascoltiamo Lean In e poi torniamo in diretta. Down now, 'cause I'm learning to lean in. Don't let me down, 'cause voce delicata e sensuale, in effetti si mantiene con la descrizione e recensione che abbiamo dato in presentazione prima del brano Lean In che stiamo ancora ascoltando. Gretchen Parlato, Lionel Luke, originario del Benin. Mi pare che il Benin è dove si trova la Porta della Libertà, quella che lasciavano. Sì. I deportati, i schiavi, sì. Sarebbe poi andati in schiavitù lasciando le coste africane. Quindi l'incrocio di questo sound brasiliano con le suasioni africane. Tra l'altro non lo sentiremo al Torrione, Mar Giuliana ha fatto un gran concerto all'ultimo Festival del Jazz di Bologna. E infatti sapevo di far cosa gradita, prendere questa intersezione musicale. E le note che state ascoltando appunto sono dalla formazione di cui abbiamo dato notizia al Torrione questa sera. Il featuring di Mark Giuliana non ci sarà, l'abbiamo portato per il Jazz Live, però per quanto riguarda le corde alla chitarra di Lionel Luke e la voce molto originale e particolare che ancora stiamo ascoltando di Gretchen Parlato, sarà sicuramente un motivo per diversificare una linea di concerti per la stagione 2023-2024 al Torrione, che sta volgendo al termine ma che è stata veramente, oltre che ricca di talenti, di originalità, anche di bellissime sorprese, tra cui appunto quella che stiamo ascoltando. Abbiamo visto Greg Osby, abbiamo visto Mark Copland, abbiamo visto e ascoltato Miguel Zenon, Michael Formanek, veramente una rassegna di musica che sto snocciolando così a ricordo per una stagione. Ne faremo un sommario magari nelle prossime puntate, perché dici Alfredo, questo, siamo sì, arrivati lo so, è quasi quando si saluta che si ringraziano i cameraman, i sì, truccatori, facciamo un sommario, che noi abbiamo dietro un apparato che ci fa bellissimi, certo, ne abbiamo bisogno. Sì, la prossima puntata sarà l'ultima legata al calendario. E poi tra l'altro però nella prossima, ma ne parleremo, vedo che con Dejan Terzic ci sarà Chris Speed, musicista molto particolare, non esattamente uno dei miei preferiti, è invece però uno dei miei, quindi varichiamo. E qui è beh, giusto che sia così anche. È la democrazia, però, il male della democrazia, sì. Però abbiamo un pianista che a me piace tantissimo, slavo, Bojan Zufar. L'ho visto in concerto, gran talento, a Kormos con Portal, fu un bellissimo concerto. Gran talento. Sì. E siamo arrivati anche alla domenica con la rassegna Serico Tonale, anzi a tale proposito lancio il brano perché... Beh, ne abbiamo parlato tanto, continueremo a farlo seguendo i percorsi, i progetti, lo studio della Tower Jazz Composer Orchestra, Piero Bittolobon e Alfonso Santimone, che sono tra le colonne portanti di questa estesissima formazione, sempre al lavoro per quanto riguarda il percorso della domenica al Torrione con Serico e Tonale, sarà di conclusione per la settimana, quindi sarà domenica 28 aprile. Per saperne di più, a breve saremo in diretta con Piero Bittolobon. A tra poco. parliamo di questo stacco della Tower Jazz Composer Orchestra alle 11:54 minuti di questo 26 aprile per presentare anche il termine del weekend di questa ultima settimana del mese di aprile 2024, rassegna Serico Tonale, la curatela di Istantanea, la collaborazione con la Tower Jazz Composer Orchestra e con noi Piero Bittolo Bon. Buongiorno e bentornato Piero. Buongiorno a tutti. Allora, raccontaci un po' dei percorsi della Tower, anche perché è da un po' che non ci sentiamo. L'ultima volta ho contattato Alfonso e poi ci siamo staccati un attimo adesso per corredare, completare un po' questo nostro motivo di conversazione. Ho pensato bene di romperti le scatole nella giornata odierna. Raccontaci un po' della Tower nei progetti e nei percorsi recenti e in quello che magari sarà. Di recente purtroppo non c'è stato molto, perché come potete immaginare un'orchestra di queste dimensioni per poter funzionare ha bisogno di essere foraggiata in qualche maniera, e negli ultimi tempi diciamo che i rubinetti erano stati non apertissimi, diciamo. Quindi siamo riusciti a fare pochi concerti questa stagione e questo sarà il secondo. Sì. L'ultimo della stagione Jazz Club Ferrara, però contiamo di ritornare più forti che pria l'anno prossimo, quindi questo è quanto. Avete continuato però a lavorare, immagino. Beh, come orchestra purtroppo appunto non avendo prove posso essere sincero? Devi, siamo qui apposta. C'è allora la risposta qua. È no, no. Okay, okay. Va bene. Vi auguro una pronta ripresa. Allora, sì, ritorneremo. Adesso, insomma, si spera, come dicevo, che qualche soldino in più arriverà nelle nostre casse, nelle nostre logore casse, e che riusciremo a riprendere un'attività un po' più continuativa. Certo. Come ben sai, è un'orchestra formata oltre che da molti musicisti locali, anche da tanti musicisti che vengono da più lontano, quindi insomma le spese di viaggio, vitto, alloggio sono davvero al di sopra di un'autoproduzione, per cui insomma aspettiamo tempi migliori, ecco. Ti posso chiedere la programmazione di domenica, qualcosa? Allora, domenica cosa suoneremo? Suoneremo un bel po' di grandi classici della scuola chicaghese. Quindi, la famosa scuola chicaghese. Esattamente, quindi grandi classici di Anthony Braxton, di Henry Threadgill e di chi altri. Suoneremo un brano di Michael Mantler. Suoneremo dei brani anche di scuola ferrarese, sì. Insomma, i compositori locali, e quindi insomma non vi svelo oltre. Ok, ti passo Alfredo che voleva prendere la linea, giustamente. Sì. No, volevo chiedere una cosa, parlando anche dell'elemento contraddittorio che tu segnalavi, perché da una parte negli ultimi anni c'è un grande interesse per la partitura di grande orchestra che ha mille meriti e mille difficoltà, d'altra parte anche di grande orchestra se ne vede un po' in concerto perché costano, questo è il problema, anche farli esibire. Eppure c'è una tradizione che va da Bobby Brookmeyer, da quelle attuali, Maria Schneider, insomma. Tu parlavi di Anthony Braxton, la sua creativa orchestra, eccetera. C'è un riferimento preciso, oppure voi guardate questo grande magma di orchestre, pescate dove più vi piace? Diciamo che per esempio per quel che riguarda il repertorio che suoneremo domenica è stato un po' casuale il fatto di scegliere dal grande book che abbiamo a disposizione, sia di composizioni originali scritte dai membri dell'orchestra che da arrangiamenti e trascrizioni che abbiamo fatto noi di brani a noi cari. È venuto fuori che la scaletta si comporrà, diciamo, in maniera piuttosto prevalente di cover, chiamiamole così, di musicisti a cui insomma in qualche maniera siamo molto legati e a cui ci ispiriamo in vari modi. Altre volte la scaletta è stata composta esclusivamente da brani originali, quindi insomma diciamo che il caso ha voluto così. Certo. Devo dire che sono molto legato alla vostra interpretazione di un blues di Julius Enfield. Adesso non mi ricordo più il nome, ma un antico blues di Julius Enfield che voi avete suonato anche a Bologna, al Parco della Zucca, insomma. Non so se ti ricordi. Non mi ricordo. Ah, male, male. Qui sento le rotelline che si muovono da qui per mettere in moto la memoria. L'ultimo Julius Sanfri in repertorio, sinceramente. Con i primi dischi con Bill Frisell ancora. Allora forse era un brano di Bill Frisell. Ah, può darci, sì. Okay. Perché altrimenti era Love Motel. C'è quello, sì. Dove c'è un fantastico solo del buon Giulio. Grande maestro. E alle 11.59 di questa nostra diretta, che conclude per quanto riguarda il Jazz Club Estense con la rassegna sericotonale, la Tower Jazz Composer Orchestra, che sarà la domenica 28 aprile, noi ti ringraziamo tantissimo, ricordo alle 21.30, e ci vediamo a Ferrara. Grazie Piero. Grazie a voi al solito. Ciao. Io intendevo se c'era una continuità di ricerca lavorativa, però mi rendo conto che con le difficoltà, insomma, automaticamente è anche più difficile portare avanti. Ormai chi può giocare con un'orchestra, su musicisti come, che so, Steve Coleman, che ha fatto questo bellissimo disco con l'Orchestra Nazionale de Paris, de France, che è un'orchestrona, però ci vuole spalle veramente larghe o un largo mecenate, perché davvero tenere in vita, già far suonare l'orchestra in un concerto è difficilissimo, pensa tante le combinazioni dei vari tournée dei musicisti, esattamente, solo farle arrivare, mantenerli e pagare, cioè è una cifra che è molto meglio il concerto solo per chi organizza un festival. Anche voce chitarra, non so, ho tanti altri esempi. Eppure personaggi come appunto citavo la Maria Schneider, la sua orchestra sarebbe stupendo da sentirli, perché è davvero importante, però è difficile. Quando c'è, mi raccomando, non fateveli scappare. Non perdeteli, la Tower Jazz Orchestra, infatti, perché già il pezzo che hai mandato era proprio importante. Sì, interessante, certo. La voce di Marta Raviglia che qua ci accompagnerà alla pubblicità. Noi rientriamo, ci spostiamo da Ferrara, perché a breve lunedì ci sarà la presentazione ufficiale. Io sono riuscito ad avere qualche anticipazione con il direttore di Angelica Festival, 34esima edizione, e ne parleremo tra poco, dopo la pubblicità.